Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Isacco Neri, i 50 anni nell'illuminazione di un'impresa romagnola nata startup. Di Anna Marino. Per me innanzitutto è un orgoglio essere romagnolo. Se dovessi descrivere le caratteristiche di un romagnolo, sicuramente si tratta di persone molto dinamiche, che hanno una grande voglia di fare e che tendenzialmente hanno un carattere molto amichevole che aiuta in questo senso a girare per il mondo, a essere cittadini del mondo. La storia di turismo della nostra riviera in qualche modo ne sono un piccolo segno. Isacco Neri parla così delle sue origini e di quelle dell'azienda familiare, leader nella produzione di sistemi lighting e di soluzioni per l'arredo urbano, con sede a Longiano, nel Forlivese. Fondata nel 1962 da Domenico Neri, oggi alla guida ci sono il figlio Antonio Neri con la carica di presidente e il nipote Isacco con la carica di CEO. Neri Illuminazione è presente direttamente con proprie sedi in aree strategiche, ha uffici in India, Russia e paesi CIS, Singapore, Nord America e paesi arabi. Il carattere romagnolo, ospitale e aperto, e l'abitudine al contatto con diverse culture, è quello che ha guidato fin dagli albori l'iniziativa imprenditoriale di famiglia, partita dal nonno artista, intraprendente come uno start-upper di oggi. L'attività nasce nel 1962, quindi di fatto quest'anno è anche la ricorrenza del 50°. L'idea nasce a mio nonno, Domenico Neri, io sono la terza generazione. Nasce per un motivo molto semplice, cioè mio nonno, diciamo che come personalmente è principalmente un artista, tant'è vero che a 70 anni recentemente ha deciso di dedicarsi alla scultura, quindi adesso a tempo pieno si dedica appunto all'espressione artistica della sua vena artistica. A suo tempo, oltre a essere artista, grande disegnatore, amante dell'arte, geometra presso varie sedi comunali e non, e quindi diciamo comunque dopo aver svolto un lavoro da dipendente per diversi anni aveva questo fortissimo desiderio di fare qualcosa di proprio. Fare qualcosa di proprio, unito a questa vena artistica, esigenza di fare qualcosa di bello, più o meno casualmente, diciamo, ha trovato espressione nel cominciare a disegnare illuminazione per rendere più belle le città. Quindi, da un lato, dando la possibilità di fare qualcosa di suo, a partire col cugino in un garage, però senza dimenticare questo aspetto artistico che comunque sia era espressione di quello che è. Un'iniziativa nata appunto in un garage come le startup di oggi, ma c'è una differenza. Sempre di garage si tratta, ma allora erano proprio garage veramente rudimentali, no? Oggi sono garage più evoluti da un certo punto di vista, in cui è più facile probabilmente, pur partendo da un luogo fisico minuscolo che rimane tale, pensare ad un orizzonte mondiale. Allora il garage forse era più rappresentativo anche della mentalità comune, cioè molto più locale, molto, no, meno aperta. Il fatto di invece vedere aziende che già allora, partendo da un contesto così piccolo, sono state capaci di andare nel mondo è sicuramente molto affascinante e dal mio punto di vista anche apre un senso di responsabilità importante. Era un garage assolutamente romagnolo, sì. Ed ecco come un'innovazione nasceva allora. Da quali competenze e da quali interessi del fondatore? Mio nonno era maestro e aveva una grandissima predisposizione per il disegno, e quindi diciamo che al di là degli studi, peraltro interrotti per ovvi motivi causa guerra, e aveva questo grandissimo interesse per l'architettura e più in generale l'arte in senso lato. Quindi parallelamente agli studi ha sempre approfondito personalmente queste tematiche, continuando peraltro a esercitare questa sua passione del disegno, e tant'è vero che tutti i primi prodotti sono disegnati a mano da lui, e fino a 8 anni fa così è stato. E interrompe gli studi dopo le magistrali e cerca anche di iscriversi ad architettura, diciamo secondo un suggerimento di un amico architetto, poi a causa della guerra questo non avviene e quindi poi fortunatamente riesce comunque a dare espressione di questa sua passione creando l'azienda un tot di anni dopo. Aneddoti e storie corrono come l'energia elettrica nei fili della luce che collegano le generazioni di neri illuminazione. E immagini come fotografie sono rimaste impresse nella mente di Isacco Neri. Mi ricordo proprio questi pranzi familiari in cui mio nonno sui tovaglioli proprio di carta che si utilizzano, insomma, a tavola, si divertiva a disegnarmi i prodotti che stava pensando con la penna e con una grande passione nel comunicarmeli. Questo ovviamente rimane come ricordo e non appena, nel senso che per noi il prodotto è sicuramente parte di noi. Un'altra cosa simpatica da questo punto di vista, molto collegata, è che nel suo studio c'è questa foto in bianco e nero, semi ridicola per quel che riguarda il look dei vestiari di allora, in cui io sono piccolissimo, qualche anno, e ci sono io, quindi in scala crescente, no, di altezza ci sono io, c'è mia madre, c'è mio padre e di fianco c'è un lampione, perché stiamo camminando sul canale di Cesenatico che è stato illuminato da neri, e mio nonno la tiene nello studio dicendo, anche se non sembra, nella foto ci sono anch'io che sono l'ultimo, cioè il lampione. Quindi diciamo, in questi due aneddoti semplicemente le racconto il fatto di questa presenza del prodotto, dell'azienda, perché poi in parte coincidono, come presenza fisica reale che c'è sempre stata nella nostra famiglia, sempre ci sarà, e di fatto di questo sono anche molto orgoglioso. L'ingresso di Isacco Neri porta con sé quindi nuovi sviluppi, nati dalla formazione ma poi arrivati presto lontano. Neri ha un fatturato di circa 30 milioni di euro, di cui oltre il 30% è ottenuto all'estero. I mercati che concentrano il maggior numero di progetti sono quello americano, russo e medio orientale. Anche se l'azienda è presente all'estero da oltre 30 anni, negli ultimi 2 anni ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione maggiore, che punta nel medio termine ad avere una distribuzione dei fatturati fra Italia ed estero pari al 50%, soprattutto per combattere la crisi. E l'estero è stato presente fin dall'inizio, nella formazione e nelle scelte di Isacco Neri. Laurea in ingegneria civile e architettura. Dopodiché ho lavorato per una serie di anni in mondo principalmente, diciamo, finanziario, consulenza e finanza. Poi sono stato negli Stati Uniti a fare un MBA e un master, e avrei francamente voluto continuare la mia esperienza fuori per completarla al meglio, devo essere sincero. Poi però, come sempre succede, è la realtà che impone i tempi, e quando passa un treno si sale o non si sale. Quindi è stato evidente a un certo punto che l'azienda era in un momento molto delicato e importante in cui si rigettavano le basi per il suo futuro, e a quel punto bisognava scegliere se tornare e cercare di scrivere il libro o aspettare e poi tornare e leggersi un libro già scritto. Ho optato per la prima, con tutte le difficoltà del caso, però per ora mi sento di dire che è andata bene, e sicuramente rifarei la stessa scelta. Neri oggi è presente con propri prodotti in oltre 4.000 comuni italiani, come Piazza San Marco a Venezia e Piazza dei Miracoli a Pisa, e in numerosi landmark internazionali, dalla piazza antistante il Museo Louvre a Parigi al Central Park e Ground Zero a New York, e il progetto di illuminazione custom made per l'Emirate Palace a Dubai, negli Emirati Arabi. Ma al curriculum si aggiungono ora anche l'illuminazione nelle stazioni della metropolitana russa di Mosca e lo stadio di Amon Lane a Dublino, in Irlanda. La produzione però resta in Italia al 100%, e all'estero ci sono circa il 15% dei dipendenti. Isacco Neri ricorda i viaggi di famiglia. La Neri, nello specifico, ha sempre avuto una predominanza nel mercato italiano, perché mio nonno inizialmente ha cominciato a produrre, a sviluppare prodotti che erano finalizzati al centro storico, e come tali trovavano appunto applicazione principalmente in Italia. Poi ovviamente la cosa si è allargata, e già ai tempi di mio nonno c'erano importanti commesse estere, Stati Uniti principalmente, mi ricordo, e successivamente anche nel resto dell'Europa, Russia, Medio Oriente. Spesso e volentieri, finché ero piccolo, mi ricordo che che viaggiavo anche con mio padre e che i nostri viaggi erano sempre caratterizzati da visite turistiche e visite ai lampioni e agli impianti di illuminazione. Questo è una costante, ma è una costante che si tramanda, nel senso che è un prodotto particolare e devo dire anche tutti i miei amici e conoscenti mi dicono che dopo avermi conosciuto, aver parlato, inevitabilmente girando per il mondo o per l'Italia ogni tanto si abbassano per vedere se sulla base del palo c'è scritto neri oppure no. Tra le ultime innovazioni, da segnalare l'utilizzo di tecniche innovative, come LED ad alto comfort e basso impatto ambientale, e l'introduzione delle cosiddette tecnologie intelligenti, quali connettività e Wi-Fi, per le cosiddette smart city, le città intelligenti. Abitiamo in parte in casa e molto di più fuori, quindi la tendenza sarà sempre di più quella di creare all'esterno spazi domestici, cioè di dare quel comfort che uno normalmente vive nel suo salotto, poterlo offrire all'esterno. A tutto questo si deve aggiungere la Fondazione Neri, che da più di 20 anni opera nell'ambito della ricerca culturale e colleziona pezzi e documenti che risalgono addirittura al 1840. La fondazione è nata proprio perché per tutta una serie di lavori era necessario appunto conoscere la storia dei prodotti. Tante volte per andare ad illuminare dei luoghi storici, non solo, il fatto di conoscere appunto cosa c'è stato prima e come si è sviluppato è un contributo importante a trovare poi la soluzione ottimale. Noi in alcuni casi facciamo restauri e riproduzioni di situazioni passate, come lo è stato per esempio per Venezia, che abbiamo illuminato interamente ricostruendo pali storicamente tipici di Venezia. Ma Neri Illuminazione, tiene a precisare il suo numero uno Isacco, rimane un'impresa innovativa e all'avanguardia, perché vive in una terra dinamica. Startup romagnola significa cambiare costantemente con grande dinamismo e soprattutto con una grande passione. E ciò che si fa si riesce a fare bene soltanto se ultimamente c'è una passione nel farlo. E il romagnolo penso che sia una persona di questo tipo, che fa col piacere di fare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.